Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da maggio a dicembre del 1831. Gli esuli italiani in Francia protestano col re per il mancato intervento, tensione tra Parigi e Vienna. E a Marsiglia un liberale in esilio fonda un'associazione patriottica, la Giovine Italia. Rivolta di schiavi nel sud degli Stati Uniti, centinaia di morti tra gli afroamericani. Gran Bretagna, all'insegna dell'austerity, l'incoronazione di Guglielmo IV, il fratello spese 4 volte tanto. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. Prosegue in tutti i territori della penisola la repressione antiliberale e antipatriottica. A Palermo sono state giustiziate 12 persone accusate di aver dato vita ad un tentativo rivoluzionario. Si raffreddano intanto, proprio a causa delle vicende italiane, le relazioni tra Austria e Francia. Gli austriaci arrivati fino a Roma, il Papa con loro, accusano Parigi di aver segretamente sostenuto i tentativi rivoluzionari, come risulta da alcune testimonianze e dal fatto che tra i morti nelle rivoluzioni romagnole c'è Napoleone Luigi Bonaparte, figlio del re d'Olanda. La Francia nega, ma nello stesso tempo gli esuli italiani a Parigi accusano il re Luigi Filippo di non aver concesso gli aiuti promessi. E un altro esule italiano in Francia ha creato un nuovo movimento con il quale spera di aggregare le istanze patriottiche. Alcuni dicono che stia già raccogliendo parecchi proseliti, altri profetizzano che possa fare la fine della carboneria disarticolata dalle forze dell'ordine in gran parte del paese. Eppure molti esuli e un discreto numero di cittadini degli stati della penisola guardano con favore alla nuova associazione fondata da un giovane avvocato di Genova. Lui si chiama Giuseppe Mazzini e ha collaborato negli anni scorsi all'Indicatore genovese, poi chiuso dalla polizia sabauda, e quindi all'Indicatore livornese. Dopo l'arresto e la detenzione a Savona si è trasferito in Francia e dunque esule anch'egli, e a Marsiglia ha creato un movimento chiamato Giovine Italia. Dalla carboneria ha mutuato la segretezza dei membri e il carattere cospirativo, ma non la segretezza degli scopi, tanto che è prevista nei prossimi mesi l'uscita di un periodico che porta il nome della stessa associazione. Vuole l'unità d'Italia e vuole la Repubblica. Questo non gli ha impedito nei mesi scorsi di scrivere al neo incoronato re di Savoia Carlo Alberto, sul quale poggiano le speranze di molti liberali e patrioti. Nel documento del quale il Gazzettino del Risorgimento è entrato in possesso e che sta circolando negli ambienti italiani, si incita il sovrano a mettersi a capo di un movimento di liberazione. Sire, vi si legge, respingete l'Austria, lasciate la Francia, stringetevi all'Italia, ponetevi alla testa della nazione e scrivete nella vostra bandiera, unione, libertà, indipendenza, liberate l'Italia dai barbari. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. È stata sedata nel sangue una rivolta di schiavi nel sud degli Stati Uniti. Una 70 di uomini guidati da un afroamericano di nome Nat Turner hanno iniziato a girare casa per casa, liberando gli altri schiavi e uccidendo i bianchi. Oltre 50 le vittime, ma dopo 2 giorni è scattata la reazione. Turner è stato catturato e giustiziato, così come i suoi compagni. Nei giorni successivi almeno altri 200 neri sono stati uccisi. Il nuovo re piace agli inglesi, anche solo per il fatto che ama passeggiare come un comune cittadino, seppur scortato per le vie di Londra. E anche la cerimonia di incoronazione di Guglielmo IV, salito al trono l'anno scorso al posto del fratello Giorgio IV, non mancherà di suscitare il gradimento dei sudditi. Spenderà 30.000 sterline contro le 200.000 di Giorgio. Guglielmo avrebbe in mente anche un ambizioso programma di riforme, nel quale, tra l'altro, si prevede una revisione del sistema elettorale. È tutto, sul nostro sito potete come sempre scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog, la nostra pagina Facebook e lasciateci un commento, fatelo prendendo penna e calamaio elettronici. Per le missive digitali l'indirizzo è gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.